10 dicembre 2009. 10 dicembre 2009. Allora, il testo che invece leggiamo e commentiamo oggi è tratto dall'altro libro di Flusser che si trova in edizione italiana, che è Per una filosofia della fotografia. Il titolo di questo libro è un po', beh, insomma, non dico che è una truffa, però non parla solo di foto, insomma, sì, parla di fotografia, insomma, è più in generale una teoria dell'immagine. Il testo è più breve dell'altro perché si tratta di un unico libro, mentre l'altro è una raccolta, di saggi. Ed è interessante perché imposta, secondo me, in maniera abbastanza soddisfacente, il tema del rapporto tra immagine e parola, sia pure la parola intesa da un punto di vista, come fa lui, della parola scritta, e cioè dei testi. La frase di inizio di questo, insomma, del libro è: le immagini sono superfici significanti. Mi pare una buona definizione di immagine. Il modo in cui poi Flusser articola nel libro questa definizione, le immagini sono significanti, si basa però su un presupposto che dice che viene enunciato nella premessa del libro, quindi prima di questa frase, e cioè la premessa, il presupposto di Flusser nella sua analisi è che nella cultura umana ci siano state, fino dai suoi inizi, due svolte fondamentali, due cesure, insomma, fondamentali, che coincidono più o meno con le due cesure, con le due svolte che aveva indicato McLuhan, però con una terminologia diversa che adesso vorrei commentare. Le due cesure, secondo Flusser, sono la prima, che si è verificata verso la metà del secondo millennio avanti Cristo, e che è l'invenzione della scrittura lineare. E la seconda, dice, a cui stiamo assistendo adesso, il libro è uscito nel 1983, quindi è ancora precedente ad alcuni degli scritti dell'altro libro, ed è la, diciamo, invenzione delle immagini tecniche. Poi dice, può darsi che in passato si siano verificate altre cesure del genere, che però non siamo riusciti a cogliere. Commentiamo un attimo questa affermazione di Flusser. È chiaro che almeno la prima è debitrice agli studi di McLuhan sull'importanza della scrittura rispetto alla oralità, quindi sulla importanza di avere uno strumento di traduzione, di fissazione su un supporto della parola parlata, della oralità, diciamo, collegabile, se vogliamo tentare di fare un collegamento tra la situazione economica e sociale delle comunità umane e i loro strumenti espressivi, e anche questa ovviamente è un'intuizione di tipo McLuhaniano, è collegabile con l'affermazione definitiva dell'agricoltura come modo di produzione dominante, centrale del cibo. È vero che, questo l'avrò già detto 50.000 volte, ma lo ripeto sempre così, è vero che l'invenzione dell'agricoltura è molto precedente al secondo millennio avanti Cristo. L'agricoltura comincia intorno al settimo millennio avanti Cristo. Però per circa cinque millenni l'agricoltura non soppianta, non sostituisce totalmente la caccia e la raccolta. Per più di cinque millenni l'agricoltura rimane confinata in poche aree le cui condizioni climatiche e, diciamo, territoriali sono tali da consentire. Quindi l'alveo, il letto di pochi fiumi, ripeto, il Nilo, alcuni fiumi nell'Anatolia, il Tigri, l'Eufrate, il Medio Oriente, il fiume Giallo in Cina, eccetera. Quindi a lungo l'agricoltura non soltanto coesiste con la caccia e la raccolta, ma addirittura è secondaria da un certo punto di vista rispetto alla caccia e alla raccolta. È solo 3 millenni prima di Cristo che diciamo, l'agricoltura sviluppa pienamente tutte le sue potenzialità. Per quasi 5 millenni l'agricoltura rimane una potenzialità, è qualcosa di interessante, di nuovo, ma che per una serie di motivi non riesce a... Perché? Perché è difficile gestire, è difficile inventare dei modi di organizzazione sociale che siano in grado di gestire la maggiore ricchezza che l'agricoltura produce, e cioè il surplus. Nella economia di caccia e di raccolta non c'è surplus, non si coltiva niente, si raccolgono le bacche che si possono raccogliere, i frutti che si possono raccogliere, quelli che vengono consumati subito, nella giornata, nella settimana, quelli che non si possono raccogliere si lasciano sull'albero e marciscono e danno luogo alle altre cose, insomma. L'agricoltura invece consente di produrre molto più, diciamo, più e spesso molto più di quanto non si consumi, e quindi richiede una reazione sociale diversa. Non è un caso che l'affermazione e la chiamiamola vittoria o la maggiore diffusione dell'agricoltura si abbia soltanto quando viene inventato uno strumento che consente di gestire nella maniera migliore, di generalizzare e di utilizzare questo surplus, questo sovrapprodotto sociale che è prodotto dall'agricoltura. Questo strumento è la scrittura lineare. Fatto salvo con tutto quello che dice poi McLuhan e in seguito anche De Percore sull'alfabeto rispetto agli altri sistemi di, diciamo, scrittura. Però indubbiamente è la scrittura che è lo strumento, quindi sicuramente questa è una delle, si può quindi indicare, volendo col termine di rivoluzione neolitica, questa prima rivoluzione tecnica, intendendo però che è una rivoluzione che si sviluppa su tempi lunghissimi, per circa 5 millenni, dalla iniziale intuizione che facendo una serie di operazioni di sodamento del terreno, semina, eccetera, sia possibile coltivare artificialmente delle cose analoghe a quelle che crescono in natura con una resa molto molto maggiore, al momento in cui questa iniziale intuizione di tipo tecnico alimentare sviluppa un'intera società, quindi crea diciamo, dei cambiamenti di una certa consistenza nel corpo sociale, e il primo di questi cambiamenti è la divisione della società in classi. Le classi sociali nascono solo quando c'è da gestire questo sovrapprodotto, perché nascono, cioè nella economia di caccia e di raccolta non ci sono classi sociali, non c'è una differenziazione sociale, c'è una divisione del lavoro all'interno di questi gruppi, anche perché da un punto di vista numerico, diciamo, i gruppi di maggiore consistenza di cacciatori e raccoglitori non possono superare le pochissime centinaia di persone. Con 200 persone, 300 persone non ha senso dire che, come diavolo ci dividiamo. C'è una embrionale divisione del lavoro tra maschi e femmine, ma insomma dovuta più che altro a dei ritmi biologici della parte femminile del genere umano, gravidanza, allattamento, eccetera, ma questo non porta a una vera differenziazione sociale. La differenziazione sociale avviene quando l'agricoltura consente la creazione di comunità, intanto di comunità molto, molto più vaste, che sono non più poche, o poche o pochissime centinaia, ma cominciano ad essere migliaia e migliaia di persone. Quando le condizioni di maggiore prosperità dovute all'agricoltura consentono di raccogliere su uno stesso territorio abbastanza limitato migliaia, migliaia, decine di migliaia, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 persone, le prime città, la prima città accertata, che è quella di Çatalhöyük all'incirca 9.000 anni fa in Anatolia, aveva una popolazione stimata intorno alle 7.000 persone, era un numero eccezionale per l'epoca, pensate 7.000 anni prima di Cristo, 9.000 anni fa circa. E poi però, insomma, diciamo, Babilonia, Ninive, insomma, le grandi città della Mesopotamia e dell'Egitto arrivano invece a decine di migliaia, cominciano ad arrivare già verso le 100.000 persone. Probabilmente Ur aveva forse già sicuramente più di 50.000 abitanti. Quindi questa è quella, la prima cosa che dice Flusser, è quella che noi possiamo chiamare in qualche maniera rivoluzione tecnica, scusate, rivoluzione diciamo neolitica, che lui chiama invenzione della scrittura lineare. Notate che Flusser non assegna all'invenzione della stampa diciamo, non considera l'invenzione della stampa una delle due cesure fondamentali, evidentemente perché dal suo punto di vista la stampa non fa altro che sviluppare e in qualche maniera concludere l'invenzione della scrittura, diciamo, lineare, secondo le cose che vi ho già detto. La seconda a cui stiamo assistendo va sotto la voce invenzione delle immagini tecniche. Ora, l'invenzione delle immagini tecniche, vedremo cosa intende Flusser per immagini tecniche, l'invenzione delle immagini tecniche coincide dal punto di vista sociale con quello che noi possiamo chiamare, con quello che noi chiameremmo società post-industriale. E quindi, come Flusser non considera la stampa dal punto di vista comunicativo come una cesura, un taglio, una innovazione così fondamentale come la scrittura lineare, così non considera la società industriale come una innovazione molto forte rispetto alla società agricola, alla società dell'agricoltura. Possiamo dire che Flusser sottovaluta la portata della rivoluzione industriale da un punto di vista economico e, diciamo, sociale, sicuramente sì. Da un punto di vista economico e sociale è sbagliato. È sbagliato non considerare l'invenzione, la nascita della società industriale come un taglio, come una cesura fondamentale. Siccome Flusser si pone qui dal punto di vista in qualche maniera della storia delle immagini, sulla storia delle immagini non ha torto. Anche perché, allora, devo so, correggere quello che ho detto prima, in realtà le immagini tecniche non nascono dalla società post-industriale. Le immagini tecniche nascono con la società industriale sviluppata. Quindi, diciamo, la critica che noi possiamo fare a Flusser è che lui sposta, come dire, non considera fondamentale dal punto di vista dal suo punto di vista, diciamo, la fase iniziale della diciamo, civiltà industriale, quindi il 17-18 secolo, considera fondamentale il 19 secolo e dal punto di vista delle immagini non ha torto, ha ragione, Esattamente come la stampa arriva un po' tardi rispetto all'invenzione della scrittura, diciamo all'incirca 2000 anni dopo, così con dei ritmi molto più accelerati, la rivoluzione nel campo delle immagini, che consiste nella fotografia di fatto, avviene un secolo e mezzo, quasi due secoli dopo l'inizio della società industriale. Cioè questo, questa è una dinamica che si osserva spesso, cioè, che ci deve rendere sempre, secondo me, un po' scettici sulle periodizzazioni troppo definite. Tutte le cose di cui stiamo parlando adesso non sono degli eventi, cioè, sono dei processi e quindi hanno bisogno di tempo per, diciamo, svilupparsi. Certamente sempre meno tempo, quanto più la legge fondamentale, se c'è, se la possiamo enunciare così, delle società umane, che è l'accelerazione continua dello sviluppo tecnico, l'accelerazione, cioè il fatto che la velocità muta più rapidamente man mano che passa il tempo, quindi aumenta la sua accelerazione, il cambiamento di velocità per unità di tempo. Così si può dire che da questo punto di vista, dal punto di vista delle immagini, Flusser non ha torto, perché perché la società industriale nella prima fase, nella prima parte del suo sviluppo, continua a utilizzare strumenti comunicativi ereditati dal passato, cioè la scrittura lineare, la stampa, e non riesce ad integrare in questa costellazione comunicativa le immagini, che continuano a mantenere una loro autonomia forte rispetto agli altri strumenti di comunicazione. Sono quelle che lui chiama le immagini tecniche, invece, che creano le condizioni per questa integrazione, per l'integrazione tra immagine e parola, e secondo Flusser anche per una nuova conflittualità, una conflittualità nuova tra immagine e parola. Questa conflittualità lui pensa che ci sia sempre stata, ma allora dice: questa ipotesi, cioè l'ipotesi che le cesure fondamentali nella cultura umana siano due, invenzione della scrittura lineare, invenzione delle immagini tecniche, implica il sospetto che la cultura, e dunque l'esistenza in genere, sia in procinto di subire una trasformazione strutturale. Il presente saggio tenterà di corroborare tale sospetto. Quindi lui dice: stiamo effettivamente per subire una trasformazione strutturale e radicale. Torniamo al tema delle immagini. Se le immagini sono superfici significanti, dice Flusser, esse indicano solitamente qualcosa nello spazio-tempo là fuori, qualcosa che in quanto astrazioni, in quanto riduzioni delle quattro dimensioni spazio-temporali alle due della superficie, devono rendere a noi rappresentabile. Quindi c'è qualcosa di fuori, là fuori, che viene rappresentato, viene ridotto. Là fuori c'è qualcosa che si sviluppa in uno spazio quadridimensionale, tre dimensioni temporali, tre dimensioni spaziali e una dimensione temporale. L'immagine, dice lui, riduce questo mondo quadridimensionale a un mondo bidimensionale, un mondo in cui manca il tempo e è un mondo piatto, il mondo di una superficie, no? Però questi prodotti, queste cose, questi oggetti che si sviluppano su una superficie rappresentano in qualche modo quello che c'è là fuori, nello spazio-tempo fuori. Chiameremo, dice Flusser, immaginazione, questa facoltà specifica di astrarre superfici dallo spazio-tempo e riproiettarle nuovamente nello spazio-tempo. Quindi l'immagine, secondo Flusser, è il risultato di una astrazione. Da quattro dimensioni, tre spaziali e una temporale, le si riduce a due dimensioni spaziali. Quindi io prendo delle superfici dallo spazio-tempo, le astraggo e poi le riproietto nuovamente nello spazio-tempo, no? Facciamo l'esempio di Lascaux, della pittura rupestre del bisonte di Lascaux. c'è stato un bisonte là fuori, c'è stata una situazione reale o forse anche soltanto immaginata di caccia a questo bisonte. L'anonimo pittore di Lascaux ha astratto, ha tolto, ha individuato degli elementi centrali, secondo lui, e li ha trasportati sulla parete bidimensionale più o meno liscia di una caverna. Con dei tratti ha ricostruito delle cose che ci devono, che nella sua mente ricordavano quella situazione che aveva visto. Lo spettatore che va, guarda, non è lui che ha fatto questo dipinto, è un suo compagno, un suo amico, un suo collega. Guarda questa cosa qui, la vede, si immagina nella sua mente una situazione spazio-temporale, vede il bisonte muoversi, lo vede nella sua mente in carne ed ossa, quindi quei pochi tratti, quei segni fatti su una, come dire, superficie, sono nella mente di chi lo vede, ritornano, cioè c'è un processo, esatto, evoca la situazione, quindi c'è un processo inverso, c'è una astrazione nel momento della creazione e c'è una concretizzazione immaginaria, sempre diciamo virtuale, nella mente di chi osserva, ma chi osserva è in grado di ricollegare quei segni bidimensionali su una superficie a una situazione ipotetica, immaginata da lui, quadridimensionale, cioè i corpi, le tre dimensioni dei corpi che si sviluppano nel tempo, le situazioni che si sviluppano nel tempo, quindi quattro, diciamo, dimensioni. Astrazione. L'immagine è una astrazione. Notiamo che, qui bisogna che vi dica che Flusser, che scrive in tedesco questo libro, Für eine Philosophie der Fotografie, noi leggiamo immaginazione e per noi è un termine che usiamo. Invece Flusser non usa il termine usuale tedesco per immaginazione. In tedesco immaginazione si dice Bildung. Bild è immagine. Bildung è, diciamo, l'immaginazione. Immaginazione o anche, si usa a volte anche per dire formazione, Bildung. Per esempio a volte trovate che c'è un tipo, una particolare sottocategoria di romanzi, che sono quelli che noi chiamiamo i romanzi di formazione, in tedesco si chiamano Bildungsroman, Bildungsromanen, romanzi di immaginazione o di formazione. Invece, per indicare questa immaginazione, Flusser usa il termine imagination, che è come l'imagination inglese, lo sto solo pronunciando alla tedesca, perché è un termine che non è quasi mai usato in allora, perché Flusser usa un termine così raro in tedesco? Perché quando lui dice immaginazione non intende effettivamente quello che noi intendiamo, cioè intende un particolare significato della parola. Infatti leggiamo la sua definizione. Dice: chiameremo immaginazione questa facoltà specifica di astrarre superfici dallo spazio-tempo e riproiettarle nuovamente nello spazio-tempo. Essa è il presupposto per la produzione e la decifrazione di immagini. In altri termini, è la facoltà di codificare i fenomeni in simboli bidimensionali e di leggere questi simboli. Perché Flusser ha bisogno di operare questa differenza di termini, perché in tutte le parole, in tutte le lingue, insomma, nella gran parte delle lingue indoeuropee che conosciamo, la parola immagine, imagine in inglese, image in francese, bild in tedesco, ignoro come si dica in russo, è molto ambigua, ha almeno due diversi significati. Noi chiamiamo immagine anche la ricostruzione mentale che noi facciamo di una data situazione. Noi chiamiamo immagine molto spesso, cioè noi chiamiamo molto spesso, chiamiamo sempre immagine, un senso del termine immagine per esempio è il contenuto dei nostri ricordi. Quando noi ci ricordiamo, dice, mi ricordo quando sono andato al casinò di Campione, mi ricordo quando ho incontrato la prima volta mia cugina, mi ricordo quel corteo che ho fatto nel 68. E nella nostra mente noi abbiamo dei contenuti, delle cose un po' vaghe forse, ma sono ricordi di persone, di volti, di situazioni, sono immagini mentali. Noi però chiamiamo immagine anche quello che qui, in queste poche righe, Flusser ha definito immagini, cioè superfici significanti, segni tracciati su uno spazio. Ora, è chiaro che è molto diverso, a noi sembrano la stessa cosa, o ci sembra molto simile, ma perché usiamo lo stesso termine? Il fatto di usare lo stesso termine ci impedisce a volte di cogliere la specificità di questo processo. Ecco perché Flusser non vuole usare la normale parola Bildung per indicare questa facoltà di, diciamo, immaginazione. Quindi, come ci sono due tipi diversi di immagini, così ci sono due tipi diversi di immaginazione. C'è un'immaginazione, diciamo, noi se non vogliamo fare come Flusser, quindi indicare i due processi con due parole diverse, dobbiamo perlomeno distinguere i due diversi significati principali del termine immaginazione. E cioè, il primo, c'è una, diciamo, immaginazione mentale, è la capacità di evocare, che è di vario tipo, che riguarda i ricordi, ma anche le previsioni. Se ho un appuntamento con una ragazza che mi piace particolarmente, nelle ore precedenti o nei giorni precedenti mi immaginerò l'incontro. Non posso farci nulla, anche se non voglio. La mia mente e mi immagino e penso prima alla scena, a come sarà vestita lei, come sarà carina, che cosa faremo, se ci daremo un bacio, se ci guarderemo negli occhi, se lei sorriderà, è tutta immaginazione. Io non lo so, questa sta a casa sua e magari poi arriva incazzata con una biscia e mi dà la borsetta in testa, ma io intanto mi sono immaginato che questo incontro con lei sarà così, sarà bello, questa è una previsione, oppure mi posso ricordare, sono tutte immagini mentali, questa è una immaginazione, quindi la capacità di evocare nella nostra mente, di costruire nella nostra mente in assenza della situazione reale, una situazione passata o futura. Quindi l'immaginazione, da questo punto di vista, è una facoltà, possiamo dire, che avviene in assenza dell'oggetto. Quando io immagino perché ricordo o immagino perché prevedo, non ho sotto gli occhi l'oggetto. Se io mi ricordo un libro che ho visto, quel libro non ce l'ho, non ho l'immagine del libro, è inutile. Io adesso questo libro non me lo immagino, ce l'ho qua. Che mi immagino? Mi immagino niente. Wilhelm Flusser, la cultura dei media, ce l'ho, lo tocco, lo vedo, lo odoro. Ma se vengo domani e dico, ieri ho portato a scuola, ho usato il libro di Flusser, la cultura dei media, me lo sto immaginando quel libro, non ce l'ho. Quindi questa immaginazione è una facoltà, chiamiamola, virgolette, in assenza. Avviene in assenza dell'oggetto. Questa è la Bildung, era Bildung, il normale significato del termine Bildung. L'immaginazione, la imaginazione, pronuncio come dire tedesca, perché è in tedesco che c'è questa roba. Se dico imagination, imagination per gli inglesi può essere sia l'una che l'altra, come per noi è l'immaginazione. Un secondo tipo di immaginazione invece, quella che lui chiama immaginazione, non è in assenza. Nell'immaginazione io sono in presenza di una immagine, di un quadro, sono davanti alla Semolina di Velázquez, guardo questa insieme di foto montate di Edward Muybridge che sta sulla copertina di questo libro. Guardo, lo guardo, è in presenza. Io sono capace di interpretare queste linee, questi alternarsi di chiari e scuri, come l'immagine multipla di un corpo che salta. Sono capace di rendere concreta, almeno nella mia testa, questa che è soltanto una superficie, e sapere che essa è la rappresentazione di una persona in carne ed ossa che sta saltando. Di attivare un Di meccanismo. attivarlo, questo è in presenza. Io sto immaginando che cosa? C'è sempre qualcosa che manca, è il corpo, non c'è il corpo del saltatore che sta soltanto nella mia testa, ma c'è qualche cosa, quindi almeno in alcuni casi, questa immaginazione è una immaginazione che avviene in presenza di una immagine già data, perché io la leggo e la interpreto, in presenza di un'immagine che sto facendo se sono un pittore e voglio dipingere Giuditta e Oloferne. E allora nella mia testa ho un modello mentale di, diciamo, Giuditta e Oloferne, lo trasferisco sulla, mentre io dipingo il quadro, se sono un pittore, esercito una immaginazione, ho una facoltà di immaginazione, è sempre in presenza di qualcosa che si sta costruendo. Se sono un fotografo, e fotografo, creo l'immagine insieme con la macchina e la creo in presenza, l'immagine è lì, la sto creando in quel momento, magari anche se non la vedo materialmente, ci vuole un po' di tempo perché la luce impressioni e faccia le trasformazioni chimiche che deve fare sui sali del nitrato d'argento che stanno sulla pellicola o faccia le modificazioni magnetiche se uso invece una macchina, diciamo, digitale, nel qual caso è più immediato, è sempre in presenza. Quindi possiamo dire che le due diverse forme, questo è un mio commento, non lo dice Flusser, quindi sono di due tipi diversi, immaginazione in assenza, immagine mentale, immaginazione in presenza, immagine concreta, tradizionale o tecnica. Il significato delle immagini si trova sulla superficie, torniamo a Flusser. Il significato delle immagini si trova sulla superficie, lo si può cogliere con un solo colpo d'occhio, ma allora rimane superficiale. Se vogliamo approfondire il significato, vale a dire ricostruire le dimensioni sottoposte all'astrazione, ricostruire i corpi dalle immagini dei corpi, dobbiamo lasciare vagare lo sguardo a tentoni sulla superficie. Chiameremo scanning, uso il termine inglese, questo vagare sulla superficie dell'immagine. In tal caso lo sguardo segue un percorso complesso formato in parte dalla struttura dell'immagine, in parte dall'intenzione dell'osservatore. Il significato dell'immagine, così come si rivela nel corso dello scanning, presenta perciò una sintesi di due intenzioni, quella che si manifesta nell'immagine e quella che si manifesta nell'osservatore. Ne consegue che le immagini non sono complessi simboli denotativi, univoci, come per esempio i numeri, ma connotativi, plurivoci, esse lasciano spazio alle interpretazioni. Allora, qui Flusser distingue tra una terminologia logica usa, tra denotazione e connotazione. Allora, in logica la denotazione la denotazione di un concetto è l'insieme di tutti gli oggetti a cui si applica quel concetto. Per esempio, qual è la denotazione della parola rosso? Facciamo l'esempio di rosso. Che cosa denota rosso? La parola rosso denota tutti gli oggetti rossi. Che cos'è rosso da un punto di vista denotativo? Tutti gli oggetti che hanno la caratteristica di essere rossi, è chiaro? Denotazione quindi è una nozione puramente quantitativa. Io definisco in maniera denotativa un concetto sapendo, dico, tutti gli oggetti sono rossi. Tutti gli oggetti rossi sono rossi, è una tautologia. E presuppone che cosa? Che cosa presuppone la denotazione? Che io sia in possesso di un criterio per distinguere gli oggetti rossi da quelli non rossi. No? Come faccio ad avere questo criterio? È perché io so o presumo di sapere quali sono le caratteristiche intrinseche di un oggetto rosso. Per esempio, che stimoli nella mia retina certi coni e certi bastoncelli e non altri. Io non lo so quali, però so che c'è un processo per cui il colore rosso, oppure il colore rosso è quello che ha quella certa lunghezza d'onda che va da A nello spettro da quando Newton ci ha insegnato più o meno come sono fatti i colori. Dico bene, il colore rosso è questa. Questo secondo modo di definire il concetto di rosso è la sua connotazione. Quindi, mentre la denotazione di un concetto è l'insieme degli individui ai quali questo concetto si applica, la connotazione è l'insieme delle proprietà intrinseche che definiscono questo concetto. È chiara la differenza? Non è sempre facile, e questo implica che molti, anzi forse la maggior parte, anzi forse la totalità, dei concetti che noi utilizziamo sono concetti danno luogo a difficili interpretazioni, danno luogo a interpretazioni diverse. Questo si può vedere benissimo con la parola rosso, ma si vede ancora di più con la parola buono, con la parola coraggioso, non usando aggettivi, con la parola gentile. Mi fermo, non vado avanti. Ma già nella parola rosso, io e te potremmo discutere a lungo se certi oggetti sono davvero rossi o no. C'è una continuità, c'è un range, Quando è che un oggetto è rosso e quando è arancione? Per alcuni oggetti forse ci troviamo d'accordo tutti e tre. Cioè questo è rosso, no? Questo è arancione. Ma ci sono una serie di sfumature, a parte il daltonico, ma ognuno di noi ha una diversa sensibilità ai, diciamo, colori. Sono pochi i casi in cui i colori siano ben definiti. Ci sono un sacco di colori di transizione. Pomodoro è rosso? Pomodoro è rosso, sì. Però siamo tutti d'accordo che sia rosso un pomodoro. Dipende. La maturità del pomodoro. Bravo. Allora, ce ne sono alcuni che sono acerbi, quando sono verdi. Ce ne sono alcuni che sono in transizione tra un rosso, tra il verde e il rosso. Alcuni li possiamo chiamare rosa. Qualcuno sarà più rosa che rosso. Qualcuno avrà delle sfumature di giallo. Quindi, prendiamo il concetto di buono. Come si fa a dire che una persona è buona? Che cosa ci vuole? Cioè, eppure da un punto di vista denotativo io dovrei essere in grado di dire buoni, questo è buono, questo no, questo è buono, questo no. Quindi dovrei essere in grado di avere un criterio che mi permetta di distinguere tra quelli buoni e quelli non buoni, tra le persone coraggiose e quelle non coraggiose, tra quelle gentili e quelle non gentili. E qui sono cazzi amari, come si dice, insomma, perché... Però anche per Rosso c'è questo problema. Non è che noi pensiamo che il Mo è rosso. Cioè, ragazzi, i daltonici sono lì per dirci... daltonici si sa che... ma i daltonici è solo il caso estremo di una gamma, di un range, di un ventaglio, di una continuità di nostre esposizioni a dati sensoriali e della nostra capacità di interpretarli. Ma diciamo pure che entro certi limiti, facendo delle buone approssimazioni, noi siamo in grado di... È chiaro che denotazione e connotazione sono molto collegati tra loro, però, come dire, la denotazione rappresenta in qualche modo l'effetto, diciamo, il fissarsi di un processo precedente di, diciamo, di connotazione. Quando io sono capace di connotare bene un concetto, o perlomeno penso di avere stabilito un insieme di criteri sufficientemente fermi, no? Tali da consentire di dire questa cosa è buona, questa cosa è rossa, a quel punto sono in grado di fare una lista di tutti gli oggetti rossi, quindi dire questo è rosso e questo no, quindi posso denotare il progetto rosso. Però, questo per spiegarvi perché Flusser dice che c'è, è a livello della connotazione di un concetto che io posso avere una differenza di significati, quindi è a livello della connotazione che c'è lo spazio dell'interpretazione. Ci sono alcuni casi che sono più semplici, su alcuni concetti non c'è dubbio che, allora, quando un concetto ha una denotazione chiara, posso anche pensare che non abbia più neanche bisogno della connotazione. Flusser fa l'esempio dei numeri. Uno, il concetto di uno. Qui è più difficile che siamo in disaccordo con lui. Queste sono due pile, non ci sono Cristi. Per quanto discutiamo, queste sono due pile. Questa è una pila. Queste sono due, no? Il concetto di numero è un concetto nel quale la denotazione è pressoché sicura. Pressoché sicura sino a un certo punto, attenzione, noi diciamo così, noi occidentali, che abbiamo il concetto di numeri, diciamo, naturali, ma non pensiamo che il concetto di numero naturale come lo conosciamo noi sia universale. Non c'è in tutte le culture, Ci sono alcune culture della Polinesia, per esempio, non certamente quella hawaiana né quelle più grandi, ma alcuni di piccoli gruppi studiati, in cui per esempio la gente conta così, uno, due, molti. Uno, due? Molti. Ah. Basta. Questi sono culture che hanno solo tre numeri. Uno, due, molti. Sanno la differenza tra uno e due, e sanno la differenza tra 2 e 3, ma non quella tra 3 e 4, non quella tra 4 e 5, non quella tra 5 e 6, eccetera, eccetera. Non gliene frega nulla. Non ce l'hanno proprio, non sono capaci. Se tu li forzi, potrai, ma non c'è nella loro cosa. Quindi attenzione, anche qui mi metto sempre in guardia, non pensiamo che le nostre strutture mentali siano quelle di tutta quanta l'umanità. Questa è una... è una parentesi, mettetela fra 10.000 parentesi quadri. Ma se noi abbiamo l'idea di numero naturale, diciamo i numeri naturali, i numeri interi, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, sono un esempio di concetti che potremmo chiamare puramente denotativi, o in cui la denotazione è sicurissima. Ogni volta che la denotazione non è così sicura ed è più ambigua, cioè sempre dietro un processo di connotazione, e quindi c'è la possibilità di interpretare, no? Allora, commentiamo, dice Flusser, il significato si può cogliere con un colpo d'occhio, ma il colpo d'occhio che ho mi dà delle informazioni molto superficiali. Allora, vediamo, voi conoscete il quadro di Tiziano che si chiama L'amor sacro e l'amor profano? Tu lo conosci, tu? No. Sì. Sì, sì. Allora, io guardo questo quadro, colpo d'occhio. Il mio colpo d'occhio mi dice, ci sono due figure femminili sedute che, diciamo, mi guardano ai due lati di una struttura rettangolare. Il quadro è prevalentemente, diciamo, in ombra, cioè non è molto luminoso, soltanto le due figure sono luminose. Posso pure stupirmi che non ci sia la normale luminosità di Tiziano. Basta. Il primo colpo d'occhio che ho mi dice questo. Io ho decifrato il significato di quel quadro, da un altro punto di vista sì. Infatti lo posso, diciamo, descrivere, posso raccontarvelo io ora. Supponiamo che io non sappia il titolo, supponiamo che io non conosca il titolo di questo quadro. C'è qualcosa nel colpo d'occhio che mi può dire che quel quadro raffigura l'amore sacro e l'amore profano? Nulla. Sono due donne sedute intorno a un coso. Per potermi avvicinare ad un significato più pieno di quel quadro, e quindi per esempio per poter capire perché ha quel titolo, perché è noto nella storia dell'arte con quel titolo, io devo, non mi basta il colpo d'occhio, giusto? Il colpo d'occhio mi dice grosso modo quello che vi ho detto prima, più o meno, ovviamente più il mio occhio è allenato, più quadri ho visto nella mia vita, più mostre sono andato a vedere, più ho studiato la storia dell'arte, e più il mio colpo d'occhio sarà ricco, ma è un colpo d'occhio, non potrà mai dirmi tutto. Se voglio saperne di più, devo fare quello che Flusser chiama lo scanning. Devo guardare le singole zone del dipinto, soffermarmi qua e là, guardare il drappeggio delle vesti di queste due donne, guardare quello che hanno in mano, guardare l'espressione dei loro visi, e allora a un certo punto mi accorgerò che uno sguardo, un modo di pensare più sensuale, che l'altra ha in mano una roba che adesso vedete che non mi ricordo perché non ho sott'occhio queste cose, ma c'hanno in mano qualcosa ora che indica il fatto che una mi sembra che ha in mano una coppa, non mi ricordo più, insomma c'è una cosa degli oggetti anche per cui si capisce che si è una, diciamo, adesso non stiamo a farla lunga. Se vogliamo fare un altro esempio è Las Meninas è più, insomma, famoso, quindi forse possiamo dire il colpo d'occhio su Las Meninas è: ci sono due bambine in primo piano con una gonna smisurata e un paio di cani per terra, e forse al primo colpo d'occhio c'è un pittore a mezza, c'è un cavalletto con uno davanti che ci dipinge un po' dietro di loro. Il colpo d'occhio su Las Meninas non mi dice niente della vera struttura di quel quadro. Nel colpo d'occhio probabilmente io non vedo neanche bene quella che è una delle figure centrali ermeneuticamente di quel quadro, che è la figura in fondo che sta entrando dalla porta illuminata, l'unica porta illuminata che c'è dietro quella cosa. Il primo colpo d'occhio non mi dice nulla sulle linee che sono in parte le linee della, come dire, prospettiva, in parte le linee degli sguardi che spiegano la struttura complessissima di quel quadro. Insomma, se voglio andare a fondo del significato di una immagine, se voglio usare la mia immaginazione in maniera, devo fare uno scanning. Perché le immagini sono dei simboli più denotativi che non connotativi. Cogliendo un elemento dopo l'altro, lo sguardo che vaga sulla superficie delle immagini produce fra gli elementi relazioni temporali. Esso può tornare a un elemento dell'immagine che aveva già visto, e il prima diventa un poi. Il tempo ricostruito attraverso lo scanning è il tempo dell'eterno ritorno dell'uguale. Perché dice questo? Perché io, il tempo che io utilizzo per guardare una immagine, in questo tempo io guardo sempre la stessa immagine, non mi è cambiata sotto gli occhi. Parliamo dei quadri, perché sono le immagini, però la stessa roba potrebbe valere per una scultura. Soltanto che una scultura è tridimensionale, quindi cambia un po' però dal suo punto di vista è la differenza tra una scultura e un quadro è che io posso girarci intorno a una scultura, ma da un sacco di altri punti di vista sono molto simili, stanno fermi lì, non si muovono. Quindi il tempo che io passo a guardarle e a contemplarle è un tempo, lui dice, che è l'eterno ritorno dell'uguale, perché l'oggetto della mia indagine sta sempre lì. E quindi il mio sguardo cosa fa? Certo, mi dice qualcosa di nuovo, ma mi dice qualcosa di nuovo rispetto a qualcosa di vecchio, che è il quadro. Vecchio, anche se è stato appena fatto, perché io sto lì e guardo sempre quello. Vecchio, vecchio di 5 minuti, vecchio di un quarto d'ora, ma sempre vecchio. Sempre lo stesso. Il mio sguardo coglie elementi nuovi, ma su di un oggetto su cui io posso approfondire la mia conoscenza, ma che è sempre quello. Ma come quando guardare fuori dal finestrino, che siamo in treno, che nonostante l'immagine sia in movimento, però ogni viaggio ti rendi conto che, nonostante sia lo stesso tragitto... Ah, vedi cose nuove, sì. Soltanto che in quel caso il tempo è doppio, perché è il tempo che tu passi nel viaggio, quindi ciò che ti trovi col finestrino, e il tempo che è passato da un viaggio all'altro, quindi sono due diverse dimensioni. Se ricordate, forse voi siete troppo piccoli, eccetera, negli anni 80 mi sembra c'era una bellissima pubblicità del Campari fatta da Fellini che era proprio basata su questa idea un po' diversa, cioè l'idea era il paesaggio del finestrino. Cioè, si vedeva uno che stava in treno e si vedeva il paesaggio. L'idea di Fellini era, ovviamente a un certo punto le cose cambiavano e dal finestrino non si vedevano più, non si vedeva più all'inizio, nei primissimi secondi si vedeva un paesaggio tradizionale. Dopodiché Fellini ovviamente lo cambiava e si vedevano in qualche maniera i sogni del protagonista, insomma, una cosa tipicamente felliniana. Da cui poi veniva fuori ovviamente la bottiglietta del Campari, perché era una però c'era questa idea che ciò che tu vedi poi si può trasformare, c'è anche un film in cui è stata sfruttata questa idea, che è Natural Born Killers di Oliver Stone, un film anche questo degli anni 80, in cui c'è una cosa analoga, in cui i due protagonisti varie volte stanno in un ambiente chiuso e si vede dalla finestra, quindi è un paesaggio che dovrebbe essere fisso perché non è qualcosa che si muove, ma a poco il paesaggio fisso che si vede fuori dalla finestra viene sostituito da una serie di immagini oniriche o dei due protagonisti o oniriche direttamente del regista, insomma, in cui... Quindi questa idea della finestra. Allora, questo è collegato ma fino a un certo punto. Allora, diciamo comunque che quindi il prima diventa un poi, perché io ho riguardato dopo delle cose che guardo prima, dice lui, il tempo ricostruito attraverso lo scanning è il tempo dell'eterno ritorno dell'uguale. In quel momento stesso, però, lo sguardo produce relazioni significative fra gli elementi dell'immagine. Esso può sempre tornare a un elemento specifico dell'immagine, elevandolo così a portatore del significato dell'immagine. Esso può sempre tornare, lo sguardo, a un elemento specifico dell'immagine, elevandolo così a portatore del significato dell'immagine. Esempio, la persona in fondo de Las Meninas. Esempio, la cosa che ha in mano, l'amore profano, che non mi ricordo che cos'è nel quadro di Tiziano. Nascono allora complessi semantici nei quali un elemento conferisce significato all'altro e da questo ottiene il proprio significato. Lo spazio ricostruito attraverso lo scanning è lo spazio del significato reciproco. Questo spazio-tempo proprio all'immagine non è altro che il mondo della magia. Oh, ecco qui una bella e abbastanza originale, anche se non originalissima, interpretazione, lettura di Flusser della questione dell'immagine. Questo spazio-tempo proprio all'immagine non è altro che il mondo della magia, un mondo in cui tutto si ripete, l'eterno ritorno, e tutto partecipa di un contesto significativo. Nel mondo della magia, il mondo della magia, aggiungo io, è il mondo della paranoia, in cui tutto ha un significato. La paranoia vuol dire questo, che anche a cose che non hanno alcun significato, il paranoico associa un significato. Dice, ah, quella persona lì mi ha guardato male, in realtà non l'ha guardato male. Semplicemente aveva un sassolino nella scarpa, aveva una brutta espressione in faccia, ma il paranoico pensa, ah, quello lì mi ha guardato male, quindi mi odia, e quindi tutto ha un significato anche quando non ce l'ha. Idem nel mondo della magia. Un tale mondo, quello della magia, si distingue strutturalmente dal mondo della linearità storica, nel quale nulla si ripete e tutto ha cause e avrà conseguenze. Per esempio, nel mondo storico l'alba è causa del canto del gallo. Il gallo canta perché il sole sorge. Nel mondo magico l'alba significa il canto e il canto significa l'alba. Sono in relazione reciproca tra loro, non c'è causa ed effetto lineare nel mondo della magia. In qualche modo tutto è causa diciamo, di tutto. Una delle affermazioni più significative del modo di pensare magico è l'affermazione nei trattati di Hermeto Trismegisto: ciò che sta in alto come ciò che sta in basso. Il microcosmo riflette il macrocosmo, c'è tutta questa serie di cose che per il pensiero storico e poi per quello scientifico non hanno alcun senso, ma che per il pensiero magico invece ce l'hanno. Il significato delle immagini è magico, conclusione di, o perlomeno ipotesi di Flusser. Quando decifriamo un'immagine dobbiamo tenere conto del suo carattere magico. È dunque sbagliato voler vedere nelle immagini degli eventi congelati. Ah, allora, noi abbiamo sempre pensato che i quadri fossero eventi congelati. No, si dice Flusser, non sono eventi congelati. Essi anzi sostituiscono gli eventi con stati di cose e li traducono in scene. Il potere magico delle immagini risiede nella loro qualità di superficie e la loro intrinseca dialettica, la loro contraddizione va vista alla luce di questa magia. Le immagini, quindi, torno su questo punto, sostituiscono gli eventi con stati di cose. Perché? Ma sempre in virtù dell'immaginazione. Sì, e perché tu hai tolto un evento è tale perché ha quattro dimensioni, le tre spaziali e una temporale. Lì dentro il tempo non c'è, non può essere un evento quello che sta nel quadro, perché gli manca il tempo. Allora noi diciamo, ah, è un evento congelato, sì. Ma, dice Flusser, un evento senza il tempo, non lo possiamo chiamare un evento congelato, un evento senza il tempo è uno stato di cose, un insieme di relazioni dialettiche ma statiche tra diversi elementi visivi. L'immaginazione è stata in grado di astrarre dall'evento, cioè dalla reale o immaginata, non c'è nessun evento dietro al quadro dell'amor sacro, dell'amor profano, diciamo, è un'allegoria. Però c'è un evento mentale. Io me lo sono pensato nel tempo, anche nella mia mente si svolge il tempo, dopodiché nella mente di Tiziano e di quelli prima di lui che avevano fatto questa metafora dell'amore sacro profano, perché c'è una storia, evidentemente questa è quasi un piccolo sottogenere pittorico, amore sacro e amore profano. La mente di Tiziano è stata in grado di trasformare questo evento mentale, immagino due donne che simboleggia, in uno stato di cose, in un insieme di tratti lì, certo, congelati, ma quando sono congelati è come se non fossero più un evento. Un evento congelato non ci può essere, diventa uno stato di cose. Quindi, l'immagine sostituisce gli eventi con stati di cose e li traduce in scene. Il potere magico delle immagini risiede nella loro qualità di superficie e la loro intrinseca dialettica, la loro contraddizione va vista alla luce di questa magia. Le immagini sono mediazioni tra il mondo e l'uomo. L'uomo esiste, existe, esistere in inglese e in latino è exist. In realtà il suono X è la combinazione di due suoni consonantici diversi, K e il S. Quindi esiste può essere scritto come exist. L'uomo existe, dice Flusser. Che cosa vuol dire exist? Vuol dire che lui è sist, cioè essere, sta, noi stiamo seduti, noi in piedi, però stiamo ec, che vuol dire come fuori. E quindi Flusser dice questo, l'uomo esiste, cioè non ha un accesso diretto al mondo, l'uomo non ha accesso diretto al mondo, cosicché le immagini devono renderglielo rappresentabile. Nel momento in cui lo fanno, tuttavia, esse si pongono tra il mondo e l'uomo. Le immagini si frappongono tra il mondo e noi. Dovrebbero essere mappe e diventano schermi. Anziché rappresentare il mondo, lo alterano fino a che l'uomo si metta a vivere in funzione delle immagini da lui create. Egli smette di decifrare le immagini e le proietta invece indecifrate nel mondo là fuori. Il mondo stesso diventa così ai suoi occhi un'immagine, un contesto di scene, di stati di cose. Questo rovesciamento della funzione delle immagini lo possiamo chiamare idolatria. Idolatria è eidos, immagine, l'astro, l'aprare, non vuol dire lasciare i meccani, ma adorare, idolatria. La triga eidos è l'immagine in greco, la trein è adorare, l'adorazione dell'immagine, l'idolatria. Questo rovesciamento della funzione dell'immagine lo si può chiamare idolatria e oggigiorno possiamo osservare come si svolga. Le immagini tecniche onnipresenti intorno a noi sono sul punto di ristrutturare magicamente la nostra realtà e trasformarla in uno scenario globale di immagini. Si tratta essenzialmente in questo caso di un oblio. Dice Flusser, ci siamo dimenticati il mondo e la realtà e l'abbiamo sostituito con delle immagini. L'uomo dimentica di avere creato lui le immagini per orientarsi nel mondo grazie ad esse. Non è più in grado di decifrarle e ormai vive in funzione delle proprie immagini. Ah, l'immaginazione si è svolta, si è volta, si è mutata in allucinazione. Ecco, quando l'immaginazione è diventata allucinazione, è perché le immagini si sono in qualche maniera sostituite alla realtà. Commento di Caronia. Si potrebbe rovesciare la vecchia asserzione illuminista utilizzata da Goya in un quadro famoso che dice il sonno della ragione genera mostri, è stata fatta varie volte, è stato detto che invece è l'insonnia della ragione che genera mostri, e noi potremmo dire è l'insonnia dell'immaginazione che genera l'allucinazione. E quando l'immaginazione è insonne, non si riposa mai, continua a creare e a creare immagini su immagini, ne legge sempre di più, non è neanche più capace di decifrarle, quindi non coglie più neanche gli elementi tra loro, e quindi è l'insonnia dell'immaginazione che crea i mostri della allucinazione, diciamo, o tu pur l'allucinazione. Sembra che già una volta, al più tardi nel corso del secondo secolo avanti Cristo, questa alienazione dell'uomo dalle proprie immagini abbia assunto proporzioni critiche. Alcuni uomini tentarono perciò di risalire all'intenzione originaria che stava dietro le immagini. Tentarono di bucare gli schermi per guadagnare un accesso al mondo che gli stava dietro. Il loro metodo consisteva nello strappare dalla superficie gli elementi dell'immagine, i pixel, e disporli in righe. Essi inventarono la scrittura lineare. E così codificarono il tempo circolare della magia nel tempo lineare della storia. Fu l'inizio della coscienza storica e della storia in senso stretto. Da quel momento questa coscienza storica fu rivolta contro quella magica, una lotta ancora visibile nell'impegno dei profeti ebrei e dei filosofi greci, soprattutto di Platone, contro le immagini. Ecco perché ha usato il termine idolatria, perché voleva ricordarci la lotta di Mosè e poi dei profeti venuti dopo Mosè contro le immagini. Vi ricordate che Mosè scende dal monte Sinai dopo che Geova gli ha consegnato le tavole della legge e trova il suo popolo che è stanco di aspettarlo. Ha abbandonato i suoi insegnamenti, ha dato retta dei cattivi consiglieri, si è costruito un vitello d'oro e lo sta adorando. Idolatria. Il vitello è una scultura, non è una pittura, ma è pur sempre una immagine. È un oggetto che funziona come immagine. L'idolatria. Quindi la cultura ebraica è una cultura anti-idolatra, anti-iconica, anti, e in effetti è talmente anti-iconica che, esattamente come la cultura araba, impedisce strettamente e rigorosamente di decorare i luoghi sacri con delle immagini di qualunque tipo, con delle immagini referenziali che abbiano una retroattività, esattamente come la cultura araba. È una cultura iconofoba in qualche modo, no? Iconoclasta, distruttrice di immagini. Ci fu anche nella cultura cristiana, nella cultura occidentale in formazione verso il IX secolo, una nel mondo bizantino dell'impero d'Oriente. Ci fu una lotta del genere tra un, diciamo, dibattito anche molto aspro, anche militare, anche un confronto armato, tra una fazione iconofila e una iconoclasta. Come tutti sapete, vinsero gli iconofili e gli iconoclasti furono sconfitti, e per questo noi abbiamo tutta la bellissima storia dell'arte che noi abbiamo. Se fossimo stati iconofili, se avessero vinto gli iconoclasti, mi sembra che fosse Leone IX, l'imperatore di Bisanzio, che era favorevole all'iconoclastia, ma posso dire cazzate, non ricordo bene, noi oggi non avremmo quella storia dell'arte. La storia dell'arte occidentale è dovuta principalmente al cattolicesimo, al cristianesimo, anche nella sua variante ortodossa, insomma, in qualche maniera anche protestante, anche se protestanti fanno meno, ma insomma sono stati cattolici che sono i cattolici e gli ortodossi che fanno maggiore uso di immagini. Quindi la cultura ebraica è una cultura, se non iconoclasta, non iconofila, o possiamo dire in qualche maniera anti-iconica o anche iconofoba, volendo forse, perché un po' di fobia ce l'ha per le immagini. Ma altrettanto iconofoba è la cultura greca, che pure è una cultura che di immagini si è nutrita, aveva una grande pittura, anche se non c'è rimasta nulla, aveva una grande scultura, eccetera, ma se guardate agli scritti dei suoi filosofi, Platone soprattutto, Platone è noto per avere condannato rigorosamente, risolutamente, tutte le attività delle arti visive. Fosse stato per Platone, nessun curatore contemporaneo avrebbe, avrebbe manco una lira, non si farebbero mostre d'arte, sarebbero perché? Perché che cosa rimprovera Platone all'arte, cioè alle immagini? Il fatto di essere, direbbe Flusser, delle astrazioni di secondo grado, perché dice Platone, l'arte cosa fa? Le arti, diciamo, visive imitano la natura, ma già per Platone la natura, cioè il mondo visibile, è una imitazione del mondo delle idee, del mondo iperuranio, del mondo delle essenze immutabili, che è l'unico mondo reale e vero secondo Platone. Quindi dice, che attività, che valore può mai avere un'attività che produce delle copie di copie? Già gli oggetti naturali, già il mondo, le montagne, i fiumi, gli alberi sono le copie delle forme eterne, immutabili, copie anche molto bruttine, perché sono molto più belli, diciamo, i solidi regolari, dice Platone, che non queste forme schifosine, tutte frastagliate del mondo reale. Ma gli artisti, cioè i pittori, sono dei miserabili, perché non fanno altro che copiare queste cose che già sono copie di copie. Quindi anche la ora, critica a critica mia a come dire Flusser, se tutto questo è vero, c'è da spiegarsi però come mai la cultura occidentale come la conosciamo noi, che nasce proprio dall'incontro di quelle due culture, quella ebraica e quella neoplatonica, così dice giustamente nel secondo secolo avanti Cristo, quando queste culture cominciano ad incontrarsi e poi dopo due secoli daranno loro al cristianesimo proprio, okay. Come mai allora questa cultura occidentale che ha una origine così anti-iconica o iconofoba si è sviluppata invece in una cultura idolatrica? Come mai ha vinto l'idolatria? Come mai ha vinto l'iconofilia nel, diciamo, dibattito nel mondo cristiano 9 secoli dopo Cristo? E questo dovrebbe essere spiegato, perché non si capisce bene come mai delle radici così profondamente anti-iconiche abbiano dato luogo invece a una cultura così radicalmente iconica. Ma poi ci spiegherà Flusser perché, perché in realtà Flusser dice, dal momento dell'invenzione, dal momento del massimo sviluppo pre-stampa della scrittura lineare, cioè della scrittura alfabetica, dice c'è stata, e è molto bello il modo in cui lo ha descritto, lo leggiamo un attimo, dice, alcuni uomini tentarono di risalire all'intenzione originaria che stava dietro le immagini, che secondo loro avevano, secondo Platone per esempio, avevano preso troppo spazio. Tentarono di bucare gli schermi per guadagnare un accesso al mondo che vi stava dietro. Il loro metodo consisteva nello strappare dalla superficie gli elementi dell'immagine, i pixel, dice lui, e disporli in righe. Così inventarono la scrittura lineare. Quindi lui associa in maniera molto metaforica ma efficace la scrittura alla, non la parola, attenzione, la parola esiste da molto prima dell'immagine, ma la scrittura invece esiste solo dopo, ci sono prima le immagini della di scrittura, c'è prima la delle. Però, dice lui, in fondo la scrittura cosa sono? Sono dei piccoli elementi di immagine, delle forme, no? Che sono strappate da queste immagini più grandi e vengono disposte linearmente. Allora, due commenti. Bucare lo schermo. Bucare lo schermo è sempre stato il sogno degli utopisti e dei paranoici, ripeto, tutto questo ha molto a che fare con la paranoia. D'altra parte, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma ci si becca quasi sempre, si ha quasi sempre ragione. Allora, in altro modo, il paranoico ha torto, il mondo non è così pieno di cattive intenzioni come pensa il paranoico, però funziona come se come se le cose stessero davvero così. Il paranoico ha torto in teoria, ma ha spesso ragione nella pratica. E così bucare lo schermo. C'è una scena importante del Don Chisciotte, che tra l'altro Orson Welles ha reso benissimo nel suo Don Chisciotte, che non ha mai, diciamo, finito, ed è la scena in cui, nel libro di Cervantes, Don Chisciotte si trova ad assistere allo spettacolo di Burattini. E il burattinaio quella sera, non sapendo di avere Don Chisciotte in sala, nella locanda, mette in scena uno spettacolo su Amadigi di Gaula e la sua lotta contro i saraceni, non sapendo che Amadigi di Gaula è la grande star di Don Chisciotte, il personaggio che Don Chisciotte ama di più fra tutti, non Orlando, eccetera, no, Amadigi di Gaula, che è perché per noi è uno minore, invece per Don Chisciotte era quel perché era il, diciamo, l'eroe di uno dei libri più diffusi in Spagna nella letteratura cavalleresca. E allora Don Chisciotte sale seduto in platea e vede le cose di questi burattini, che con il burattinaio dietro, che li guida, erano marionette, non burattini, quindi marionette a filo, tipo i pubblici siciliani, abbastanza grossini probabilmente anche, no? Non c'è scritto come Van Gogh, ma noi ce li immaginiamo più o meno così. E quindi c'è questo grande teatro, così, Amadigi Gaula, e Amadigi Gaula deve salvare la principessa. A un certo punto c'è una scena in cui ovviamente un po' di pathos, un po' di suspense ci vuole, e viene assalito da 6, 7, 8, diciamo, saraceni. La marionetta di Amadigi si difende valorosissimamente, ma sembra che lo siano per sopraffare. Beh, a questo punto Don Chisciotte non si tiene più, sta in, come dire, platea, ma vede che Amadigi di Gaula è in grave pericolo, forse è ridotto a malparito, forse non potrà salvare la principessa, forse addirittura morirà sopraffatto da quegli infedeli. Quindi cosa fa Don Chisciotte? Sguaina la spada e si getta in difesa di Amadigi di Gaula per dargli una mano a combattere i saraceni, e in effetti fa una strage. Mena fendenti, le marionette dei saraceni sono spaccate in quattro tutte quante, purtroppo insieme con le marionette dei saraceni anche la gran parte del, diciamo, teatrino del coso, ovviamente il padrone della locanda ha le mani nei capelli, il padrone di Burattini anche, ma ovviamente prende Don Chisciotte per il collo e gli fa, dice, beh, adesso tu mi paghi tutto perché mi hai distrutto la cosa, brutto cretino che non sei altro, cosa volevi fare? E quindi ovviamente, diciamo, Don Chisciotte paga. Perché vi ho detto questa scena? Perché Orson Welles, nel suo Don Chisciotte, ripeto, incompiuto, ha tradotto questa scena visivamente in termini moderni. È il suo, diciamo, Don Chisciotte, sapete, forse se l'avete visto qualche pezzetto, non so se ormai, ma mi sembra che una volta l'hanno mandato, tre o quattro volte per il Cardinotti, l'ho visto direttamente sulle pizze salvate da Enrico Ghezzi in un festival. Diciamo, Don Chisciotte è un Don Chisciotte ambientato nel mondo contemporaneo. Contemporaneo vuol dire gli anni 60, che erano gli anni in cui a piccoli spezzoni Orson Welles girò alcune scene. Una di queste scene è quella dei, come dire, burattini. Allora, quindi, diciamo, Don Chisciotte vive nel mondo, diciamo, moderno, dove, quindi, in mezzo alle macchine, però già la sua è un tipo lungo, era a Quinta Miroff, che poi è diventato troppo vecchio, quindi Orson Welles ha messo troppo tempo, non ha mai finito. Anche Dulcinea, che era una ragazzina di 14 anni, nelle ultime scene ne ha già 18-19, e si vede il cambiamento, insomma. E comunque non so come sarebbe mai riuscito a finirlo. Quindi Don Chisciotte comunque è un personaggio che lui ha rispettato l'iconografia tradizionale di Don Chisciotte, delle prime illustrazioni, l'elmo di Mambrino in testa, cioè la bacinella del barbiere a mo' di elmo, e questa armatura passata, magro, però va in giro per le strade di Parigi, per le strade di Roma, per le strade delle Marrone. E quindi a un certo punto questa scena del teatro dei burattini Orson Welles l'ha trasformata in una scena al cinema. Don Chisciotte entra al cinema, vede una serie di scene di, non ci sono più i burattini, una serie di scene di violenza, insomma, no? E sullo schermo decide, come nel libro, di dare una mano, quindi salta sul semi palcoscenico del cinema, sguarda la spada e mena grandi fendenti sullo schermo, quindi fa a pezzi lo schermo e quindi buca lo schermo, ecco perché gli ha fatto buca lo schermo, esattamente come bucavano lo schermo i contadini peruviani descritti da Werner Herzog durante il lungo periodo in cui Werner Herzog girò Fitzcarraldo sulle Ande, nelle montagne peruviane, e vide questa scena e ce la descrive, ce la racconta anche a noi in un articolo poi messo in un libro, in cui racconta quello che succedeva quando venivano proiettati ai contadini andini delle Ande peruviane dei film western. E succedeva che i contadini si appassionavano molto alla storia che raccontavano, che veniva raccontata sullo schermo, e facevano qualcosa di analogo a quello che fa Don Chisciotte nel film di Wells, cioè estraevano le loro pistole e sparavano, anche loro sparavano sullo schermo per dare una mano allo sceriffo che combatteva i banditi. Quindi, ora tutto questo ve lo dico perché bucare lo schermo. Perché bucare lo schermo è in qualche modo è un'azione che insieme testimonia della potenza delle immagini, testimonia della potenza delle immagini, ma anche del loro intrinseco e irriducibile e ineliminabile limite. Testimonia della loro potenza perché ci mostra, è chiaro che sia Don Chisciotte che i contadini peruviani sono una patologia, nessuno potrebbe dire di no, però sono una patologia che è molto radicata almeno in una serie di culture, diciamo, umane, cioè quella di ritenere quelle immagini reali, sono così forti e così potenti che io le prendo per la realtà. Il Don Chisciotte di Cervantes scambia il teatrino dei buratti delle marionette per la realtà, il Don Chisciotte di Orson Welles scambia lo schermo cinematografico per la realtà, come i contadini peruviani. Quando nella mentalità magica, direbbe Flusser, io mi convinco che quello è il mondo, che non c'è nessuna differenza tra quello e il mondo, intervengo lì come interverrei nel mondo. Se devo combattere i saraceni, combatto anche quei saraceni. Non riesco più a capire la differenza tra un saraceno in carne ed ossa e un saraceno marionetta di legno, non riesco più a capire la differenza tra un prepotente in carne ed ossa e un prepotente sullo schermo, tra un bandito che mi sta assalendo davvero e un bandito che sta assalendo gli altri sullo schermo. In tutti i casi sguaio la spada, estraggo la pistola, sparo, faccio a pezzi lo schermo perché le immagini sono forti, sono potenti, perché si sostituiscono al reale. Ma ci può essere una relazione anche con il mito della figlia del vasaio di Corinto? Sì, che, come no, come no. Cioè che il padre modella sulla traccia, dell'ombra, dell'amante. L'origine dell'immagine è un'origine referenziale, è la stessa cosa che dice Flusser, è un processo di astrazione. L'astrazione l'ha già fatta per me la luce della candela, ha già fatto la proiezione sul muro, certo. Nel caso della figlia del vasaio di Corinto è la stessa figlia che diciamo di notte, quando c'è ancora la candela, traccia la cosa. Lo fa perché sa che il suo fidanzato il giorno dopo se ne andrà a partire per la guerra, lei non lo potrà più vedere, quindi vuole fissare, dice almeno fisso, dormiva qua, ecco, questa è la sua forma, e quindi prende un pezzo di carbone e segue il contorno, quella è la, diciamo, l'origine mitica del disegno. Però la figlia del vasaio di Corinto, essendo ancora all'origine di una, in una fase molto embrionale della civiltà dell'immagine, non scambia quel profilo sul muro per il suo fidanzato. Non sa che il fidanzato non c'è più, non è stato via. Utilizza quel su cui poi dicono che il giorno dopo il padre, vedendo quella cosa, gli costruisce un bassorilievo. Capisce l'intenzione della figlia e utilizzando, adesso non c'è più la luce, non c'è più la candela, però è rimasto quel coso sullo schermo. La figlia del vasaio di Corinto è ancora abbastanza, virgolette, corretta, perché utilizza quell'immagine semplicemente come stimolo per ricordare meglio la realtà, per qualche cosa di cui viene detto la ragione, perché è tanto innamorata di questo ragazzo che l'avrebbe ricordato comunque, ma almeno ha un segno, diciamo, tangibile, ma non lo scambierà mai per lui. Ci sono altri miti greci in cui qualcuno scambia l'immagine per la realtà invece, no? Qual è il mito di... mi scappa il nome adesso. Il mito dell'uva di Zeus? No, non c'entra niente. Quello è Zeus. Ma uno conosciutissimo. Sì, dai, quello della statua di Marte, come si chiama? Pigmalione. Il mito di Pigmalione che si porta a letto la statua e ama la statua come se fosse una persona vera e sacrifica a Venere, ad Afrodite, fino a che Afrodite si impietosisce e gli fa diventare donna in carne ed ossa quella statua. È Pigmalione, diciamo, tra la figlia del vasaio di Corinto e, come dire, Pigmalione c'è tutta la, secondo Flusser, degenerazione. Cioè l'immagine nasce come strumento del ricordo, come strumento, e quindi è una, diciamo, immaginazione corretta, giusta, che mi aiuta. Pigmalione è la degenerazione, quando io faccio l'idolatra, idolatro, adoro l'eidos, non adoro una donna reale, non mi piace andare a letto con una donna in carne ed ossa, vado a letto con una statua di marmo deficiente che non sono altro, però evidentemente se rompo i coglioni a sufficienza alla povera Afrodite si comincerà a trasformare la donna, cioè questa statua di marmo, in una donna. Quindi bucare lo schermo, dicevo, l'azione di bucare lo schermo quindi testimonia della potenza, dell'invasività dell'immagine, ma anche del loro limite. Perché? Perché sia Don Chisciotte che i contadini peruviani, alla fine della loro azione, innescata dalla loro convinzione che lo schermo sia la stessa cosa della realtà, alla fine, quando lo spettacolo è finito, Don Chisciotte nel libro si trova un teatrino delle marionette da ripagare al proprietario. Nel film si trova con uno schermo in pezzi. I contadini più grandi trovano con uno schermo con dei buchi così grossi. Lo schermo non è la realtà. Quando è finita l'esaltazione idolatrica, la mia azione di eccessiva identificazione della realtà con lo schermo, della realtà con l'immagine, mi si rivolta contro. Ho soltanto fatto a pezzi uno schermo, non ho cambiato la realtà, non ho ammazzato, non ho aiutato nessun Amadisi di Gaula a liberare la principessa, perché Gaula non c'è, era soltanto un burattino. Non ho punito nessun cattivo, perché erano solo delle ombre sullo schermo. Se mi permettete, l'excursus politico, se ci pensate bene, è la storia dell'Italia di questi anni. si sveglierà prima o poi l'Italia, si sveglierà, perché ha votato Berlusconi, perché crede che il mondo delle TV di Berlusconi sia la realtà, come lo credevano gli albanesi che guardavano 10 anni fa, 8 anni fa la TV italiana ed erano convinti che tutte le donne italiane fossero come le vedine di Mediaset e tutti i maschi fossero ricchi come i calvini. Erano qua e trovavano, oh cazzo, ma non è così, ma che strano. Ci sono anche delle donne che vanno in giro vestite normali e non come con il culo di fuori, come queste qua, ci sono anche persone povere, anche in Italia, ma guarda che strano. E idem, voglio dire, idem diciamo, l'Italia, diciamo, l'idolatra di professione, colui che sulla idolatria ha costruito il proprio impero economico e adesso anche, come dire, politico, ha convinto gli italiani che tutto il mondo sia, come dire, televisione, però poi ci sveglieremo, prima o poi si sveglieranno, non lo so fra quanto, ma insomma prima o poi si sveglieranno, già hanno cominciato a, come dire, svegliarsi adesso, perché si vede che ci sono le prime, diciamo che, quindi diciamo l'idolatria testimonia della forza delle immagini, ma anche del limite, anche della ineliminabile povertà delle immagini rispetto al, diciamo, reale. Ulteriore commento, in poche parole, in poche righe, Flusser ci racconta la storia di un tentativo, lui interpreta la scrittura come una specie di tentativo, questo è molto diverso da McLuhan in questo senso, come un tentativo inconsapevole probabilmente di reagire allo strapotere delle immagini usando lo stesso metodo delle immagini, un metodo, diciamo, omeopatico, se si potrebbe dire, prendendo delle immagini, strappando dei pezzettini di immagine dall'immagine generale, trasformandola in segni grafici e associandola alla parola parlata, e quindi creando la scrittura lineare. E creando quindi la storia. Una storia, dice Flusser, ci può essere soltanto con la scrittura. Non c'è storia nel mondo della magia, nel mondo delle immagini magiche, perché il prima e il dopo si equivalgono, perché c'è l'eterno ritorno, io guardo sempre la stessa immagine, perché tutto ha una relazione con tutto. La scrittura lineare mi costringe, favorisce una immagine del mondo in cui io seleziono degli elementi pertinenti, come ho selezionato delle immagini per tirandole fuori da lì e disponendole su una linea. Non tutto è in relazione con tutto, ma qualcosa è in relazione con qualcos'altro e non tutto, e quindi c'è una causa e c'è un effetto, e quindi è il sorgere del sole che è la causa del canto del gallo, e non il gallo e il sorgere del sole sono il simbolo l'uno dell'altro e sono intercambiabili, come cazzo mi pare a me. E quindi nasce la storia. Da quel momento questa coscienza storica fu rivolta contro quella magica, esattamente come è indicato dalle storie della Bibbia e dalla storia dei profeti. Commento di Caronia. C'è un altro modo, c'è un'altra caratteristica in questo processo immaginario, ovviamente, ipotetico, simbolico, descritto da Flusser, di strappare. Quando io strappo degli elementi di una immagine più ampia e li dispongo come segni grafici in linea su un'altra superficie, il foglio di carta o il foglio di papiro o la torretta di cera è l'equivalente della tela del pittore, ho fatto un'altra operazione, ho introdotto una nuova categoria, ho preso arbitrariamente degli elementi di qualcosa che si presenta come un continuo collegato l'uno con l'altro. Un dipinto è una immagine nel senso tradizionale, quindi un quadro, un dipinto, è l'insieme, è l'effetto di un processo, di una serie di gesti eseguiti con continuità dal pittore, la pennellata. È soltanto astraendo dalla continuità del gesto che io posso dire in quella zona c'è qualcosa, che... ma il gesto è continuo, non c'è soluzione di continuità tra una pennellata e diciamo all'interno della stessa pennellata e all'interno del quadro. Quindi io ho preso un qualcosa che era un elemento continuo, un oggetto continuo, e l'ho trasformato in un oggetto discreto, cioè in un oggetto fatto di elementi separati l'uno dall'altro, prendendo i pixel, come dice lui, prendendo i pixel anacronisticamente, dall'immagine ho preso un oggetto continuo e l'ho trasformato in qualcosa che è discreto. Ora, che cosa è già discreto nel processo comunicativo? Perché questa roba diventa scrittura? Perché c'è già un processo discontinuo, cioè discreto, che serve per rappresentare, ed è l'altro grande strumento di rappresentazione oltre all'immagine, che è il linguaggio. Il linguaggio, anche se è difficile prenderne coscienza, perché si presenta con continuità, le parole vengono pronunciate in un flusso continuo, ma in realtà sono formate di elementi discreti. Io posso distinguere le parole e posso dare significato alle parole perché inconsapevolmente confronto dei suoni tra di loro discreti, e so che cane non è pane perché è la discontinuità dei suoni, io non posso non essere consapevole, ma il sistema della parola è un sistema discreto, basato, abbiamo visto nelle prime lezioni, su un insieme di distinzioni oppositive, su una serie di differenze oppositive. Cane non è pane, non è mane, non è fane, non è tane, non è parole vere o inesistenti. È in questo modo che io comprendo il significato di ciò che dico. Perché ci sono degli elementi discontinui opposti l'uno agli altri, discreti. Linguaggio è un insieme di simboli discreti. L'immagine non è un insieme di simboli discreti, sono simboli continui. Non c'è nessuna, non è che io dico, so perché questa è, quella lì è una veste e quell'altro è un albero. Non c'è un'opposizione tra veste e albero come c'è un'opposizione tra K e B, tra A e D e I nel, diciamo, linguaggio. Ora, la scrittura, perché fa questa cosa? Perché fino dall'inizio la scrittura vuole essere un modo di tradurre visivamente ciò che io, perché è una, anche la scrittura, allora, vista come la vede Flusser, è un omaggio alla potenza dell'immagine. È prendere alcune tecniche, alcune caratteristiche tipiche dell'immagine e trasfonderle, trasportarle, tradurle, però in qualche cosa che serva per dare una, per aiutare nella, diciamo, per potenziare la forza della parola parlata, rendendola fissa, togliendole il carattere temporale, aleatorio, effimero. La parola parlata nasce e muore nel momento in cui la si dice e bisogna ricordarsela. E giustamente voi vi fidate così poco della vostra memoria che state prendendo appunti e state fissando con i simbolini di cui è sulla pagina scritta quello che io sto dicendo oralmente, sia pure, addirittura qua sto addirittura leggendo delle cose da un pezzo scritto, ci sto facendo delle costruzioni mie sopra che improvviso o che prendo da altre cose che ho letto negli anni precedenti, che ho conosciuto, che cerco di collegare, e voi traducete questa cosa. La pagina è tipico di questa cosa. Ma torniamo, perché volevo arrivare, non dico a una conclusione, perché di conclusione vera e propria non ce n'è, ma così finiamo. La lotta della scrittura contro l'immagine, della coscienza storica contro la magia, caratterizza tutta la storia. con la scrittura apparve una nuova facoltà che possiamo chiamare pensiero concettuale e che consiste nell'astrarre linee da superfici, vale a dire creare testi e decifrarli. Il concetto di testo è un concetto che vale solo per la parola scritta, non c'è un testo orale, soltanto in maniera metaforica si può dire che l'oralità è un testo, è la scrittura che genera testi. Quindi, creare testi e decifrarli. Il pensiero concettuale è più astratto di quello immaginativo, cioè delle immagini, in quanto astrae dai fenomeni tutte le dimensioni, a eccezione della linea retta. Quindi, mentre la immaginazione, la creazione di immagini, trasforma un continuum quadridimensionale in un continuum bidimensionale, la scrittura trasforma un continuum quadridimensionale in un discreto unidimensionale. Primo non è neanche più continuo, sono elementi differenti l'uno dall'altro, è una serie di elementi. E tutto si riduce a una linea, c'è una sola dimensione, non più. Però questa dimensione è in grado, perché? Perché la scrittura è così potente? Perché l'unidimensionalità della lingua, in realtà, a che cosa rimanda? Non a una dimensione spaziale del suono. Il suono non ha caratteri spaziali, se non perché esistono in spazio, ha caratteri temporali. La linea della scrittura, la vostra linea, le vostre linee di scrittura, che cosa traducono? Traducono la successione, più o meno, la successione dei miei suoni verbali. Quindi voi state, prendendo appunti, voi state adesso traducendo il tempo, io sto usando del tempo, lo state traducendo in spazio. Quindi, mentre nella produzione di immagini, nella immaginazione come la intende Flusser, nella produzione di immagini il tempo viene semplicemente eliminato, non c'è più. E le tre dimensioni spaziali vengono ridotte a due. Nella scrittura le tre dimensioni spaziali vengono totalmente ignorate ed è il tempo che viene mantenuto. L'unica dimensione spaziale della scrittura è l'equivalente, è la traduzione della dimensione temporale del suono. Ecco perché la scrittura è così potente, ma ecco anche perché ha un modo di rappresentare, ecco perché dico che è una modalità di rappresentazione totalmente diversa, e lo dice anche Flusser, addirittura estranea e, diciamo così, opposta a quella dell'immagine. La scrittura traduce il tempo in spazio, l'immagine traduce spazio in spazio e accantona il tempo, non ne parla, elimina il tempo, tranne quando arriva al cinema e insomma riesce. Il pensiero concettuale è più astratto di quello immaginativo, in quanto astrae dai fenomeni tutte le dimensioni ad eccezione della linea retta. Inventando la scrittura, l'uomo si è così allontanato di un altro passo dal mondo. Eh sì. I testi non significano il mondo, i testi significano le immagini che strappano. Wow! Decifrare testi vuol dire perciò scoprire le immagini che essi significano. E qui siamo lontani da McLuhan, L'intento dei testi è spiegare immagini, quello dei concetti è rendere comprensibili rappresentazione. Conclusione. I testi sono quindi un metacodice delle immagini. Se le immagini sono un codice del mondo, i testi sono un codice di un codice del mondo, quindi un metacodice delle immagini. Ci troviamo qua e andiamo avanti la volta prossima.